Bene, ora puoi chiudere gli occhi prima di entrare in trance, in modo da sentirti proprio a tuo agio e in contatto col tuo mondo interno. Puoi osservare il respiro, l'aria che entra e che esce. E mentre osservi l'aria che entra e che esce, potresti accorgerti che anche le spalle salgono, scendono. Mentre le spalle salgono e scendono, potresti avvertire una certa sensazione piacevole, proprio quella sensazione lì. E mentre continui a respirare, puoi prendere consapevolezza di un suono particolare che fa il tuo respiro. Puoi notare tutte le sfumature di questo suono nell'inspiro e nell'espiro. Puoi notare alcune differenze tra un'ispirazione e l'altra. Puoi notare forse che anche nel momento in cui si passa dall'inspiro all'espiro, ci sono alcune variazioni in questo suono. E tutto questo senza che tu faccia niente di particolare, ti porta un senso di rilassamento sempre più profondo. Mentre continui a rilassarti, non puoi sapere quando la tua mano destra si farà via via più leggera. Puoi sapere se avvertirai prima la leggerezza nelle dita o prima nel palmo o nel polso della mano destra. E può darsi che la leggerezza del palmo o delle dita possa avvertirla gradualmente o improvvisamente, magari insieme a un particolare senso di freschezza, in una certa zona della fronte. E mentre la fronte si fa più fresca e rilassata, la tua mano sinistra si appoggia completamente sulla gamba sinistra, assecondando totalmente la forza di gravità. E mentre la fronte si fa più fresca, la mano destra più leggera e la mano sinistra più sempre più lievemente pesante. Puoi renderti conto che ad ogni espirazione insieme all'aria escono dal tuo corpo tutte le tensioni via via accumulate, in particolar modo tensioni muscolari, microtensioni, cose che non servono più, appartengono al passato. E via che le tensioni si sciolgono ed escono dal corpo, come se il tuo corpo si facesse più ampio e spazioso. E mentre il tuo corpo si fa più ampio e più spazioso, tu puoi iniziare ad esplorare nuove sensazioni, nuove risorse che la tua mente inconscia, come un medico interiore continuamente all'opera, sta già iniziando a suggerirti. E non puoi sapere se inizierà proprio ora o fra un po', ma quello che puoi sapere è quello che la tua mente inconscia sta iniziando suggerirti. E così, mentre stai diventando più curioso, come quando eri bambino, esploravi, capivi, comprendevi cose nuove, stesso modo la tua mente profonda ti sta già suggerendo nuovi modi e nuove risorse per far fronte a certe difficoltà. Proprio così. Ed è possibile che piano piano, dal profondo, emergano dei ricordi. Proprio come delle leggere onde piano piano si infrangono sulla spiaggia. E ogni onda, proprio come il tuo espiro di adesso, ti porta lontane sensazioni, forse di quando eri più piccolo, forse di quando eri molto piccolo. Proprio come le onde del mare. E queste sensazioni che si frangono sulla spiaggia ti riportano dei ricordi. I ricordi di una volta che salgo. Sei stato molto bene alla superficie e non sapevi spiegarti perché, liberando l'aria. E non dovevi far nulla per stare così bene. Che hanno tenuto per tanto tempo. Eri semplicemente connesso in profondità con tutto ciò che c'era in quel momento e dentro quelle bolle, proprio come ora ti stai riconnettendo a tutte le tue parti energia. Interne e la tua mente profonda sa cosa deve fare affinché tutti i tuoi vettori della decisione di essere davvero te stesso, che forse per mille ragioni hanno seguito ognuno la sua strada, pieno contatto con le tue emozioni, piano piano, senza che tu faccia nulla, le tue vere emozioni, i tuoi veri sentimenti, semplicemente affidandoti a un'intelligenza superiore che è dentro di te, piano piano si riallinea. Portano sulla spiaggia verso un'unica direzione, il profumo del vento, e la tua mente profonda sa qual è la direzione che tu potrai seguire per realizzare, e questo è ciò che è importante, il progetto che la tua scintilla, la corretta direzione, vuole per te nel tuo progetto di vita, proprio così, per essere veramente chi sei. E questo movimento sta ad indicare quanto la tua mente profonda stia lavorando dentro di te, proprio così, e non devi fare nulla, solo lasciare che la mente profonda completi questo lavoro nella direzione di ciò che è veramente sano, utile per la tua piena e completa realizzazione in armonia col tuo progetto interiore, con la tua qualità interiore, le qualità della tua anima, specifiche note che tu porti nel mondo, il timbro particolare della musica e della danza e del movimento che è il tuo movimento, e soltanto la tua mente profonda, la tua anima sanno qual è il tuo movimento, e non devi fare nulla, soltanto lasciare che la forza naturale della tua marea interiore, del respiro della vita, attraversi tutto ciò che c'è da attraversare, affinché questo processo e questo cambiamento possano produrre risultati che la tua anima realmente desidera. Ed è molto piacevole affidare il timone a qualcuno che è molto esperto e potersi andare a riposare sotto coperta, godendosi il dondolio, lo sciacquio, tutti quei rumori che la barca fa, che ogni navigante conosce sai bene. Perché le ha sentite infinite volte durante le notti. Notti stellate e le notti tempestose. Rumori diversi, suoni diversi. Ma la barca è sempre quella. Lui la conosce bene, e potersi riposare sotto coperta e godersi un viaggio in cui ti puoi affidare totalmente a un'intelligenza più grande che ha sempre albergato dentro di te. totalmente in contatto con ciò che c'è. In uno stato profondo e piacevole. Il sistema si riassetta sulle nuove coordinate che sono molto antiche, e che la tua anima sempre conosce, la tua mente profonda. Non devi fare nulla. Il tuo io ha lavorato parecchio, ha fatto tante cose. Ora il suo compito è ritirarsi un poco e osservare un'intelligenza più grande che sta cominciando a guidare la tua imbarcazione. Un'intelligenza che ti appartiene da sempre e a cui appartieni. Un'intelligenza che viene da molto, molto lontano. Dagli eventi accidentali della tua vita. La stessa intelligenza che consente un embrione di trasformarsi, crescere, moltiplicare le cellule, assumere la direzione che devi assumere. E stai vedendo molte cose, consciamente e inconsciamente. C'è molto lavoro che accade, proprio così. E molte cose da lasciare andare, che non servono più. Quando una barca ha dovuto seguire una rotta che non era proprio la sua, l'equipaggio spesso ha provato paura, rabbia o tristezza. Ho imparato a fermarsi e bloccarsi. Nel momento in cui la barca viene riportata sulla rotta, c'è un grande movimento interno nell'equipaggio. Tutti possono esprimere quello che hanno davvero provato, tutte le emozioni possibili. C'è chi si rotola per terra, chi batte i pugni contro le pareti, che piange disperato. Tutto questo è assolutamente normale e accade così. Ora puoi lasciare che il tuo equipaggio esprima ciò che deve esprimere attraverso i sogni, le fantasie, le azioni immaginarie. Via via che sul tuo respiro le tensioni si sciolgono, emergono le emozioni, con o senza immagini, le sensazioni, riconoscibili o no, tutto quanto si riassesta per riallinearsi al vero progetto della tua anima, della tua essenza. Il tuo io ha imparato a tenere il timone, a tenere le vele e a raggiungere via via gli obiettivi che riteneva importanti. Lo ha imparato e lo ha fatto con forza, determinazione. Ora è il momento che il tuo io si prenda una pausa, in modo che avvenga quella correzione della rotta che può portare davvero la tua barca dove la tua anima vuole. Proprio così, puoi attraversare tutto ciò che c'è da attraversare, accoglierlo con grande dolcezza, come fa un amico sincero con un altro amico, una madre con un bambino, proprio così, accogliendo tutto questo come una benedizione. Sono le bolle che vengono su dal fondo del mare. Questa energia si libera. Mentre alcuni membri dell'equipaggio esprimono questo, il tuo io può osservare. Molto bene, proprio così. Puoi diventare questo movimento interiore. Questa emozione diventa questa cosa in modo che possa esprimersi con tutto ciò che è necessario. Verso sogni, fantasie, ricordi, azioni immaginarie. In questo modo qualunque tensione, il pericardio, il plesso solare, il diaframma, ancora la tua mente profonda sa. Si può scegliere, perché sei al sicuro, un luogo assolutamente sicuro, dove tutto può essere accolto e viene accolto. Prima o poi puoi comprendere come questo passaggio è un profondo regalo che la tua mente inconscia ti sta dando. Proprio così. Il tuo io può osservare, lasciando fare. Ciò che è necessario sta sciogliendosi. In modo che tu possa essere davvero una persona pienamente libera di esprimersi in modo immediato e diretto, perché tante volte non hai potuto farlo. E ora il tuo corpo, membri del tuo equipaggio, stanno facendo ciò che è necessario, proprio così. Giulia Grimaschi, mentre lavora con i bambini, quando un bambino entra in uno stato così, siccome una grande terapeuta ha la frase magica e gli dice: hai ragione, perché tutto questo non è mai stato visto da nessuno. Aver vissuto tutto questo al tuo interno, hai ragione, è troppo. Ora puoi davvero lasciare. Tutti i tessuti, le cellule, gli organi del tuo corpo stanno partecipando a questa danza, che è la danza della piena liberazione delle emozioni, quelle del passato, quelle del presente. E così. Via via che esplori, e lasci uscire, proprio in questo momento, stai sempre più avvicinandoti all'essenza della tua anima. Cioè il flusso dei sentimenti che finalmente ti sono disponibili. E questa è una svolta così importante. Essere totalmente compresa in un piccolo spazio di tempo. Fra una settimana, o forse fra un mese, magari fra qualche anno, tornando indietro, ti rendi conto di quale enorme passaggio hai fatto in quel giorno, del tuo passato, oggi, mentre sei qua. Hai ragione, dice la Giulia ai bambini, e tu sei stato bambino e hai ragione. Come tutti noi sei stato bambino, e ogni bambino crescendo trattiene molte lacrime. E le lacrime trattenute si trasformano in rigidità. ogni forma di rigidità si scioglie. Il tuo corpo diventa più morbido, la tua mente più libera, leggera, più liquida. A livello sempre più profondo. Naturalmente non so che cosa specificamente, passo a passo, sta accadendo dentro di te, e non so neppure se tu te ne rendi pienamente conto. E non ha alcuna importanza che tu ti renda conto, né che io sappia o non sappia. Ciò che importa che puoi diventare recettivo ed osservare tutto questo. Con la stessa disposizione con cui osservi un fenomeno naturale come la pioggia che bagna le foglie degli alberi. Una tempesta marina che arriva sulla spiaggia. Una grande onda che si infiltra nel terreno, in avanti, oltre la spiaggia. Un'enorme nuvola. Dal sole. Qualunque nuvola ci sia, il sole rimane sempre splendente oltre le nuvole. E così è la tua anima. L'anima non viene toccata dagli eventi della vita, rimane integra e pulita, l'essenza, ciò che è veramente importante, ora prima o poi. Non puoi sapere quale altra danza e su quale altra musica il tuo equipaggio voglia muoversi e danzare. Non puoi neppure sapere se danzeranno ancora o se prenderanno una lunga pausa di riposo. Che questo processo in ogni caso è ormai avviato. È come un fiume fermato da una diga. La diga a un certo punto cede e l'acqua comincia a passare. E pian piano tutta la diga si sgretola finché l'acqua può scorrere liberamente e felicemente a valle. In mezzo alle campane, alle piante, oppure a luoghi rocciosi e impervi. Non ha alcuna importanza il tragitto, qual è il percorso, perché l'acqua comunque arriva dove deve arrivare. E la tua mente profonda ti farà ritornare qua nel preciso istante in cui è opportuno che tu ritorni. Questo lavoro possa raggiungere ciò che è veramente importante, che tu come essere umano raggiungi per te. Il pieno permesso di sentire tutte le tue sensazioni, emozioni e sentimenti. Il pieno permesso di liberare tutte le emozioni e i sentimenti del tuo passato, fino a che il corso del tuo fiume è libero e l'acqua può scorrere a valle senza più ostacoli. Raggiunge un luogo pianeggiante, si fa molto tranquilla. E si rilassa e si gode tutto ciò che c'è. L'acqua sa che gli uomini si danno molto da fare a costruire dighe, pontili, imbarcadieri, ponti, strade, condotte forzate. Si danno tanto, tanto da fare. Fa in ogni caso il suo percorso, dall'alto scende verso il basso, perché nella natura delle cose e appena gli uomini smettono di darsi da fare, tutto pian piano torna come prima. Ci vorrà 10 anni, ci vorranno 100 anni, forse 1000, ma la natura riprende esattamente il suo corso. È così, è al nostro interno. Non dobbiamo fare proprio nulla. ma lasciare che un'intelligenza più grande riprenda il timone per le cose che sono davvero importanti. Proprio in questo modo nessuno può sapere dove esattamente passerà l'acqua. Così il flusso delle emozioni, delle sensazioni, così il flusso dei sentimenti, è il flusso dei ricordi, dei pensieri, delle immagini. Non ha alcuna importanza quali immagini, quali pensieri, quali ricordi. Ciò che importa è che sta imparando. Sta imparando ciò che è più importante ad osservare. Stando nel qui ed ora, assecondando il flusso di ciò che avviene. Senza giudicare, senza aspettative, senza pretendere che sia diverso da come è. E in questo modo sta imparando ciò che è più importante per un essere umano. Creare le condizioni interiori per diventare davvero se stesso. Per essere davvero chi e non l'immagine che lui stesso o qualcun altro per lui, non il progetto che il proprio io o qualcun altro ha deciso, ma essere proprio pienamente soltanto te stesso, pienamente felice, totale, di essere te stesso così, come sei. Recuperando tutta la forza che c'è dentro il tuo progetto naturale di essere davvero chi sei. E nessuno può fermare questa forza. E non rimanere troppo sorpreso quando ti accorgerai che al tuo interno alberga molta più forza di quello che credevi. Perché questa forza è stata liberata. Le catene si sono spezzate. I legacci si sono sciolti. Il tuo equipaggio può finalmente prendere possesso davvero della sua nave, in armonia col suo comandante, senza più obbedire a cose nascoste che non vengono da te, senza più dover essere qualcosa di diverso da chi veramente sei. con l'orgoglio sano e pieno di essere chi davvero sei. Così che tutti i tuoi vettori interni si allineano nel progetto che da sempre alberga dentro di te. Così che non essere troppo sorpreso quando, magari fra 2 giorni, magari fra 1 settimana, o prima o più in là, ti scopri che al tuo interno sta fiorendo una forza magnifica, come quella di un cavallo selvaggio, libero da un impedimento, libero di correre in una prateria senza più ostacoli, con quella meravigliosa eleganza e padronanza e bellezza. Una volta che ha rotto gli argini, si è liberato di tutti i finimenti, di tutto ciò che gli impediva di scorazzare dove voleva ed essere quindi finalmente davvero se stesso e felice, qualunque cosa accada. Perché questo è ciò che chiede la tua anima, ed è questo che chiede l'anima di tutte le persone che ti vogliono bene, ed è questo che vuole una volontà più grande, un'intelligenza più grande, che alberga dentro di te da sempre e fa sì che tu sia vivo. Perché senza questa intelligenza non potresti essere vivo. E ora tu puoi essere pienamente vivo. Perché si sta davvero liberando ciò che è più vivo dentro di te. Ogni fune, ogni catena, ogni imbrigliamento di qualsiasi natura, finalmente si scioglie. E allora? E allora fluiscono i sentimenti, le emozioni, le sensazioni, e allora sei libero, diretto, spontaneo, leggero, forte. E in quello stato ti senti pienamente al sicuro e a tuo agio, perché sei connesso a tutto ciò che c'è, non sei più isolato, è finita, basta, un brutto ricordo, qualcosa che non ha più niente a che fare con te. Ed è magnifico assistere a una grande liberazione che in maggiore misura o minore misura un po' tutti gli uomini sono stati oppressi e hanno deviato dal loro progetto. E non esiste rivoluzione esterna, non esiste cambiamento esteriore vero se questa rivoluzione non viene portata a termine. E il tuo corpo per primo si libera da ogni tensione che non ha più ragione di essere, perché attraverso la tua consapevolezza puoi vedere l'intero processo, non solo un frammento, l'intera serie di cause che non sono quelle della tua vita e basta, o quelle della tua famiglia, ma vengono molto da lontano e non riguardano solo te, riguardano milioni, miliardi di esseri umani che hanno generato l'oppressione e che danzano la danza dell'oppressione. Ciò che cambia sono soltanto le forme di quella danza e non la struttura profonda. Ma ora tu stai facendo un altro tipo di danza, che è la danza della piena liberazione, della consapevolezza. E se diventi consapevole, allora davvero sei capace di amare. E se sei capace di amare, non c'è più paura. E se non c'è più paura, non c'è più bisogno di controllo. E se non c'è più bisogno di controllo, puoi esprimere davvero chi sei. E se esprimi davvero chi sei, ti senti paradiso. E sei pienamente felice. Perché questo è ciò che la tua anima vuole. E questo è ciò che vuole l'anima di ciascun uomo. Ed è ciò che l'uomo realizza soltanto se si libera completamente da tutte le tradizioni, da tutti i vincoli, da tutte le false convinzioni che la società, l'umanità ha creato per danzare la danza del potere e dell'oppressione. Così puoi essere libero di mostrarti così come sei, senza neppure più accorgerti di nulla, perché sei, non ti mostri, sei e basta. Non rimanere troppo sorpreso dei cambiamenti straordinari che avvengono nella tua vita. Non so, fra un mese, fra un anno, prima o dopo. Quando ti volterai indietro e vedrai tutto ciò che è cambiato nel tuo passato, oggi, mentre ti sto parlando, adesso, in questo momento, perché sei molto recettivo e sei molto aperto, come un vaso riceve ciò che può ricevere e lo fa suo. E il tuo registratore interno, dove mantieni i ricordi, sta cambiando tutte quelle memorie che impediscono a te di essere totalmente te stesso, con la tua famiglia, con i tuoi amici, con le persone che ti sono care, nelle tue relazioni affettive e in ogni relazione. Ed è ciò che sempre ha voluto la tua anima e l'anima di tua madre e di tuo padre, che se fosse qua, l'anima, non il copione, di tua madre e di tuo padre, si avvicinerebbero a te e ti direbbero: Vito, mi dispiace per tutto il dolore che hai dovuto soffrire a causa nostra, perché tu eri piccolo e noi eravamo grandi e tu eri molto piccolo e tu non hai potuto esprimere chi eri. A noi dispiace molto e per noi, io sono l'anima di tua mamma, io sono l'anima di tuo papà, per noi due non c'è più grande regalo che puoi farci. Di lasciare andare tutte quelle cose che maldestramente noi ti abbiamo insegnato e che adesso sentiamo come un peso sulla nostra coscienza. E se tu davvero puoi completare questo cambiamento, dice l'anima di tua madre, e se davvero tu puoi completare questo cambiamento, dice l'anima di tuo padre, noi che siamo uniti alla tua anima davvero, saremo davvero felici. È il più grande regalo che ci puoi fare. E se ci fai questo regalo, significa che lasci andare ogni rancore nei nostri confronti e preferisci vivere nella gioia e far vivere anche noi nella felicità, anziché stare in quello che ti abbiamo insegnato maldestramente e continuare a soffrire te e noi. Tu vieni dopo di noi, sei nostro figlio e tu hai la possibilità di compiere questa rivoluzione anche per noi. Io che sono l'anima di tua mamma, io che sono l'anima di tuo papà, vedo e riconosco pienamente il tuo dolore e desidero che tutte le tue parti lo sentano, lo vedano, che hanno ragione nell'aver sofferto, non potevano fare altro. Tu eri piccino, eravamo grandi. Ora sei grande anche tu e tu puoi davvero compiere questo atto di liberazione per te e per noi che non ne siamo stati capaci. Adesso la tua anima risponde ai tuoi genitori e dice: io sono vostro figlio, io sono l'anima di vostro figlio, sono l'anima che ha occhi e orecchie per vedere ciò che c'è da vedere e ascoltare. Vi ringrazio per tutte le cose positive che avete fatto per me, le vedo, le riconosco e lascio andare tutto il resto. Lo lascio andare e vado avanti nel processo di liberazione, perché liberando me libero anche voi che mi avete dato la vita e che avete fatto tutto quello che eravate in grado di fare. E l'anima di tuo padre, l'anima di tua madre, sono toccati dalle tue parole e ti ringraziano e ti benedicono e ti dicono: Vito, segui la tua strada, sii davvero chi sei. Fallo per il bene tuo, per il bene nostro e per il bene di tutte le persone che ti amano. Noi saremo sempre con te come anime, ti sosterremo di giorno e di notte. I tuoi amici saranno sempre con te perché li conosciamo, hanno un cuore tenero, sono buoni. E saranno sempre con te. Ora noi ti salutiamo, ti abbracciamo e andiamo. E l'anima di tuo padre, l'anima di tua madre si allontanano sorridendo. Lasciandoti un senso di pienezza. totalità e pieno radicamento. Nella terra, nel tuo corpo, nei sentimenti, in tutto ciò che è davvero reale nella tua vita, in chi sei, in ciò che ti circonda. Così che quando tornerai qua e riaprirai gli occhi, ti accorgerai prima o poi dello straordinario cambiamento, della piena rivoluzione interiore che hai compiuto oggi. La tua vita non sarà mai più come prima, perché da una vita clandestina sarai passato a una vita autentica. Saranno colori diversi, luci diverse, odori, suoni, che appartengono a un mondo che è completamente nuovo. Farai l'esperienza dell'innamoramento, dell'essere totalmente aperta a ciò che c'è, di commuoverti per tutto quello che incontri. Una foglia in primavera, una breccia, un alito del vento, un piccolo suono, gli occhi di un amico, la gratitudine di un tuo paziente, tutte cose a cui adesso darai un immenso valore. Chiedo alla mente profonda, alla tua mente profonda, alla tua anima, di aiutarti a completare questo lavoro, in modo che i risultati ti siano disponibili nei tempi ragionevolmente più brevi possibili. Così che tu e le persone intorno possano godere di questa nuova possibilità, opportunità, trasformazione, che vedranno fiorire giorno per giorno sotto i loro occhi, sotto i tuoi occhi, dentro il tuo cuore. Sapendo che abbiamo assistito a una crepa nella diga, che l'acqua ha cominciato a uscire e che continuerà a uscire finché la diga sarà completamente cancellata, perché non ha più alcuna ragione di essere. E così l'acqua finalmente riprenderà il suo percorso naturale e bellissimo. Così che, dopo che avrò finito di contare da 1 a 6, i tuoi occhi si apriranno e ritornerai qui, nello spazio e tempo ordinario e presente, quando hai completato ciò che c'è da completare adesso. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. E sei.